Radio 24 Reportage. Base Tobruk, alpini in Afghanistan, di Giampaolo Musumeci. 5-0 basso. 5 basso. 5-0, tutto risolto, rimane in movimento basso. Ricevuto basso. Il lince morde l'asfalto rumoroso. Il convoglio procede a circa 50 km orari, mentre le prime luci dell'alba disegnano le cime attorno ai piccoli villaggi di Balabaluk, provincia di Farah. Percorriamo una delle poche strade asfaltate dell'Afghanistan. Siamo sull'autostrada A1, parte della Ring Road, il grande anello che percorre il paese e collega villaggi e città lontane. Poco distante il gomito del diavolo, dove imboscate e attacchi degli insorti sono frequenti. Il 9° Reggimento Alpini conduce intense operazioni nell'area, scorte di convogli, pattuglie, incontri con i leader di villaggio, visite e assistenza medica, supporta alle operazioni dell'esercito afghano a caccia di talebani e insorti. La base avanzata a Tobruk è il centro di queste operazioni. Il capitano Gianluca D'Amico comanda la compagnia di alpini che da 3 mesi è operativa nella base e lo sarà per i prossimi 3. La Tobruk è importante e lo sarà ancora di più con la chiusura di Bakwa più a sud. In vista c'è il ritiro delle truppe internazionali ISAF entro il 2014 e un delicato passaggio di consegne ad ANA e ANP, l'esercito e la polizia nazionale afghane. La collaborazione con l'ANA e l'ANP favorisce anche il passaggio di informazioni, questo molte volte ci crea i presupposti per individuare eventuali ordigni esplosivi che nella zona vengono piazzati. Come lei diceva, il passaggio dei nostri convogli, anche delle singole pattuglie, diventa un momento sensibile, quindi quando alcune volte l'ANP o l'ANA ci fornisce delle informazioni che riguardano proprio il posizionamento di ED, questo va a favorire la nostra sicurezza. È successo anche poco tempo fa che un'informazione che c'era stata fornita dall'ANP ha fatto sì che noi ritrovassimo un ordigno considerevole a pochi chilometri dalla FOB, quindi anche dal compound della NSF. E poi tramite la parte RCC, che sarebbe la parte predisposta alla disposa, quindi alla ricerca e alla bonifica dell'ordigno in questione, ha fatto sì che insomma l'ordigno fosse rimosso e non ha creato problemi né a noi né alle NSF stesse. A fine agosto un razzo finì nella zona d'atterraggio elicotteri della base, senza gravi conseguenze. Ma l'allerta è sempre massima e gli insorti non hanno lo stesso livello di armamento delle truppe ISAF, ma dispongono per esempio di mortai. Il caporal maggiore scelto, Francesco Trombino, guida la squadra dei mortaisti della Tobruk. L'operatività dei mortaisti è H24. Siamo su chiamata direttamente dal nostro comandante di compagnia. In base alle tipologie dell'attacco, che sia in diretto o diretto, veniamo allertati e lì, in base a quello che riceviamo, quello che subiamo, interveniamo. In 1:30 ce la facciamo. Se l'attacco venisse di notte? Di notte varia poco, perché alla fine sei sempre H24, quindi perderai 30 secondi soltanto per abituarti al buio, insomma. Com'è per un soldato non vedere il suo nemico? Orribile. Perché? Perché non sai con chi hai da fare, non sai che cosa realmente vedi e quanti ne sono, come sono. Presupponi, ti fai uno schizzo mentale di come potrebbe essere. Però è orribile perché non riesci a vedere, è come un uomo cieco. E il SAV ne sono i nostri occhi. Cos'è il SAV? Il SAV è l'osservatore del fuoco, è colui che ci dà gli aggiustamenti orientativi e le coordinate. L'assetto e l'organigramma dei gruppi di insorti in questa regione è vario, mutevole, a seconda anche le stagioni. L'inverno porta una relativa calma. Il colonnello Riccardo Cristoni, comandante della Task Force South, ricostruisce la linea di comando da Quetta in Pakistan a qua e spiega come i leader difficilmente si trovino in zona. Beh, c'è questo governatore ombra nominato di questa zona, che però, ecco, dalle informazioni non è mai qui in zona. Operano sempre tramite intermediari questi. Queste sono informazioni che arrivano anche dalle fonti di sicurezza afghane. Non si ha notizia di presenza di questi big in zona. Il Il colonnello Nabi è a capo dei servizi di informazione dell'area. I periodici incontri tra intelligence afghana, esercito, polizia e alpini permettono lo scambio di preziose informazioni. In quest'area operano due gruppi di talebani guidati dal mullah Baki e dal mullah Wakil. Le tattiche del nemico per chiudere la strada prevedono un'imboscata oppure il piazzamento di ordigni. Poi tagliano la strada. Anche se ora c'è molta polizia ed esercito afghani sulla strada, anche il nemico è lì. Nel bazar di Farah Road ci sono spie dei talebani che forniscono informazioni sui convogli che passano da questa area alla volta di Bakwa. A nord di Balabaluk, le bande di insorti usano le strade bianche per trasferire droga, armi. Ci sono gruppi che fanno capo al mullah Baki nel villaggio e supportano gli insorti fornendo le armi. Il mio suggerimento a polizia ed esercito è quindi di lavorare nel bazar. In generale, solo piccoli gruppi di talebani sono rimasti nel villaggio. I leader sono andati in Pakistan, poi torneranno in primavera dal Pakistan con nuovi piani. La prima linea è affidata all'esercito afghano. Il colonnello Saleh comanda il 6° battaglione Kandak afghano. La loro base è a fianco alla Tobruk. L'ufficiale spiega le nuove tattiche di pattuglie a piedate fatte tra un checkpoint e l'altro per controllare palmo a palmo il territorio a caccia di ordigni e di sospetti, ma sottolinea anche la carenza di armamenti. Mortai. Per adesso il battaglione ha solo 6 mortai del 1981. Ne servirebbero almeno un paio da usare nei checkpoint. Poi servirebbero delle mitragliatrici Browning, che sono le armi più potenti. Poi i Ranger, che sono i mezzi migliori da usare per pattugliare le città. Per muoversi avrebbero bisogno di Hammer o altri mezzi meglio protetti contro i proiettili dall'esterno. Poi di armi contraeree da 23 mm, ma soprattutto mortai. Il mullah Sultan è rimasto ucciso in combattimento. I suoi due figli potrebbero essere i futuri leader nell'area. I legami con la Shura e il consiglio direttivo di Quetta ci sono. Difficile stabilire quanto siano organici. Secondo l'intelligence afghana, circa 400 talebani sono attivi nel solo distretto di Balabaluk. Ogni mullah ha a disposizione circa 30 combattenti. Quanto la rete degli insorti, che comprende talebani, ma anche trafficanti di oppio, di armi, gruppi criminali, che spesso incrociano i loro interessi, saprà rafforzarsi da qui a 2 anni? E quanto l'esercito afghano saprà contrastarli? I team del San Marco lavorano gomito a gomito con gli ufficiali afghani per dare loro strumenti in più. Il 9° Reggimento Alpini continua intanto il suo lavoro. È notte, un Black Hawk americano atterra a luci spente nella Tobruk, carica un ferito. Uno scontro a fuoco a Shindan ha lasciato sul campo un militare afghano. È arrivato in fin di vita qui, nella Tobruk, ma non ce l'ha fatta. Il giorno dopo, un ordigno fa saltare un mezzo dell'ANA, 3 feriti non gravi. La prima linea di questa lunga e estenuante guerra simmetrica si sposta veloce lungo la Ring Road, si insinua sulle strade sterrate, tra i canali di scolo, tra i villaggi di pietra e fango. I talebani esercitano pressioni sui leader dei villaggi, sono pronti a colmare il vuoto che il ritiro delle truppe internazionali inevitabilmente lascerà. Starà al colonnello Saleh e al suo vice, il maggiore Fazullah, un ex mujahideen, ai due un tempo nemici e ora alleati, e ai loro uomini, tenere testa al nemico dal 2014 in poi. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.